forse è giusto che aiuta così, certe cose sono meglio amori, le ritrovore tu. Sì, tengo già una da storia e chissà, si rimane ma vozza sposa, si è ma sta innamorata. È meglio di te me, non tornare a stare da mangasi, ma dovresti chiamare. Fornisci mi chiamava, ma fa piccica con chi sta innamorato. Fornisci mi cercava, che tu giurga, ormai da c'è scordata. Ce l'hai voluta dura, mi muovo poi giù, fai pare tutto passato. L'amore va così, quando ti fa soffrire, o sai non dare una rete. E se mi vuoi incontrare, non mi saluta, a chi sta innamorato. E se ce lo sei me, sapendo pure a te, succede che hai sbagliato. Mi lasciate e mi vuoi tornare. Al tempo quando passa da ogni cosa senza da aspettare. Sì, o stai male come sono stati, manca l'aria ti pare muri, è successo pure a me. Sta innamorato, fornisci mi cercava, che tu giurga, ormai da c'è scordata. Ce l'hai voluta dura, mi muovo poi giù, fai pare tutto passato. L'amore va così, quando ti fa soffrire, o sai non dare una rete. E se mi vuoi incontrare, non mi saluta, perché sta innamorato. Ce l'ho insieme, sapendo pure a te, succede che ho sbagliato. Mi lasciate morire di tornare, ma dimmi quando passa da ogni cosa, senza nada sbagliata. Me lasciate morire, ma dimmi quando passa.